21 di questo 7 giugno del 2023 inizia prove tecniche di trasmissione fino alle 22:30 e poi ci sarà 25 o'clock. Il nostro web è www.ondarossa.info e su questo riferimento web si possono trovare anche le varie modalità di adesione alla nostra campagna di crowdfunding. Questo radio abbonamento di 30 euro. E quindi cliccando sul banner specifico si può scegliere la modalità più adatta. Molti degli ascoltatori degli spazi del sottoscritto già hanno aderito e vi ringrazio per questo. Tra gli ultimi abbiamo Tiziano del progetto Pi Greco. Gianclaudio Moiri di Plaster, altro progetto elettronico qui romano, e quindi li ringrazio. Saluto Anna qui a Roma, Cortina d'Ampezzo, Tabula Rasa. Un saluto a Doriana Panico, Cecilia Miradoli di Pindar, Francesco Cornello, Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico in quel di Varese, Lucia Cagliazza, Lupsi, che se non erro sta per far uscire un nuovo lavoro. Abbiamo poi Venusia Stramonio di Cupio Dissolvi, che ci ascolteremo questa sera, Maglia e Nicola Locci in Sardegna. Cristiano Bocci di Chemical Resistance e tanti altri progetti interessanti. Negli Stati Uniti c'è Des De Carlo from Boston, Marco Milanesio, Massimo Latina, Simone Scalise, la Dark Wave calabrese tramite Audio Chaos, Giulia qui a Roma, il medico della peste. A Firenze abbiamo Antonio Zoviet di Omicidio, che presto ascolteremo qui a Prove Tecniche. Ducis in fondo abbiamo Like Awake, Stefano Di Serio. E andiamo ad iniziare con un'operazione artistico-musicale del tutto particolare, appartenente a una parte dei Pankow, esattamente Maurizio Fasolo e Alex Spalk. Trattasi di Winterreise, una rilettura elettroacustica di Franz Schubert, di una delle ultime opere di Franz Schubert che hanno solidificato la curiosità e l'interesse di questi musicisti. Vi ricordiamo, i Pankow proprio un anno fa suonarono a Forte Prenestino in sottoscrizione per Radio Onda Rossa in un bellissimo e affollatissimo concerto. Sono dunque ritornati con questa opera che si distanzia notevolmente dal suono, diciamo, più o meno usuale di questa quarantennale band di origine toscana. C'è del pianismo, ma anche delle basi elettroniche di Maurizio Fasolo e la voce di Alex Spalk, che è rimasto sempre in contatto e interno al progetto Pankow. Ci ascoltiamo Good Nacht, Wetterfahr e Erstarrung. dich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehört in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehört in Schnee. Ich kann zu meiner Reisen nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Dass man mich trieb hinaus, lass ihre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Von einem zu dem anderen, Gott hat sie so gemacht. Die Liebe liebt das Wandern, fein Liebchen, gute Nacht. Von einem zu dem anderen, fein Liebchen, gute Nacht. den Stil mit der Wetterfahne, weil es schön in Liebchens Haus. Da dachte ich schon in meinem Wahne, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte sie bemerken sollen, des Hauses aufgestecktes Schild, so hätte er nimmer suchen wollen, im Haus sein treues Frauenbild. Der Wind spielt Tränen mit den Herzen, die auf dem Dach nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Rice in questa rilettura elettroacustica dei Pankow, almeno di una parte di loro, Maurizio Fasole e Alex Palca alla voce. Leggiamo una breve nota proprio di Pankow, che si può trovare sul loro profilo Bandcamp, anzi sul loro profilo Facebook. Siamo nel 2023, è inverno. Franz Schubert ha scritto la musica quando stava morendo di sifilide. William Müller, che è il poeta che spesso ha ispirato Schubert, hanno spesso collaborato insieme. Müller, diciamo, Müller era un poeta contemporaneo di Schubert. Müller dunque è morto senza poter ascoltare però questa opera finita. 195 anni dopo la sua prima uscita abbiamo deciso di fare un salto nell'ignoto e pubblicare la nostra versione di Winterreise, un lavoro di amore, dolore, frustrazione, testardaggine ossessivo-compulsiva. Un racconto pieno di meraviglia e sorprese, un viaggio nella vita, nel decadimento e nell'inverno che ci ha portato sull'orlo della follia e oltre. Un album che è uscito il 3 febbraio in vinile nero, in clear edition per poche copie, 300 circa quella nera e 200 per la clear, eccetera, eccetera. Etichetta ignota, forse è nata proprio per questa occasione, la Baronia Schallofolien. Schallofolien. Baronia Schallofolien. Renderemo omaggio a questo lavoro anche la prossima settimana. Als riefen sie mir zu, komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Buonasera a Nicola Locci, già salutato ad inizio trasmissione di Hexagonal. Tanta altra buona musica prodotta da questo musicista sardo. Noi andiamo avanti, andiamo da un vero e proprio creativo nel synth accordion, e chiaramente andremo a parlare di Sisto Palombella. Da poco è uscito questo Frenesie improvvise, quadretti diciamo familiari e vita vissuta per Sisto Palombella. Questa sera ci dedichiamo a questa lunga traccia dal nome Hommage. Du fändest Ruhe dort, nun bin ich manche Stunde

assolutamente talentuoso il nostro Sisto Palombella, da questo Frenesie Improvvise rintracciabile sul suo profilo Bandcamp, al pari delle opere del passato egualmente interessanti che vedono questo musicista altamente creativo che riesce con questo synth accordion a creare delle melodie e anche dei rumori veramente interessanti. E leggo: improvvisazioni su temi di vita vissuta, pensieri, ritratti di amici, emozioni. E questo poi d'altronde è l'universo musicale di Sisto Palombella, che ha caratterizzato tutte le opere del passato fino ad arrivare a questo album del 9 marzo del 2023. Ma anche di lui ne riparleremo la prossima settimana. Andiamo un po' a calarci nella realtà del soundtrack, delle colonne sonore, ed è questo il caso di Un puro nulla, una colonna sonora di un'opera teatrale realizzata da Luca Borgia e Marco Milanesio. Marco Milanesio assolutamente protagonista sia come produttore e sia anche come musicista. Da questa, diciamo, performance ci andiamo ad ascoltare Lara's Theme. prima mezz'oretta l'abbiamo dedicata a suntuosi artisti italiani. Quest'ultimi erano una collaborazione tra Luca Purum Nihil e Marco Milanesio in questo Un puro nulla soundtrack, colonna sonora di una piece teatrale, e abbiamo estratto il tema di Lara's Theme, post rock ma anche paesaggi siderali e innevati, questo magari il potere evocativo che ha fatto sì che molti di noi magari si sono calati in una realtà decisamente fredda e rarefatta, ma pregna di espressività, come sottolinea giustamente Like Wake. Album che ci ha tenuto compagnia in queste settimane. Dopo questo inizio dedicato all'Italia, adesso invece facciamo un lungo viaggio per arrivare in America Latina. Questa prefazione ci porta naturalmente, come tutti avranno immaginato, da Raffaele Pezzella in questa Latin American Music Survey Anthology of Experimental Music from Latin America. Titolo lunghissimo, ma il concetto base è quello. Il Sud America nascosto, ultrasotterraneo, che soltanto un ricercatore indefesso come Raffaele Pezzella poteva fare. Una ricerca veramente certosina. Questa sera è il turno di un artista con una lunga traccia dal nome Santiago Fradejas, e questo è un film Sobre Insectos. frontiere sensoriali d'avanguardia superate da Santiago Fradejas in questo un film Sobre Insectos, una lunga traccia dal sapore lisergico a testimonianza di come questa scena latinoamericana sia varia, vasta e molto interessante, e un merito naturalmente va da Raffaele Pezzella. Per la gioia di Venusia c'è un progetto qui che si chiama Tremolo Audio, chissà cosa può scatenare nella fantasia di Venusia, che sappiamo molto consistente, vasta e anche lei variegata. E giustamente, come dice Anna, noi dell'America Latina abbiamo una concezione particolare. È il bello che invece, ma Pezzella già ci ha deliziato in passato su questo, da continenti e da pezzi geograficamente lontani da noi, a volte vengono delle chicche veramente memorabili e intense. Ricordo su tutti, per esempio, delle compilation dedicate all'Iran, al Libano, tante anche dedicate proprio al Sud America, alla scena brasiliana, molto interessante. È uscita anche un collage elettroacustico dedicato alla Finlandia, tra le moltissime opere sfornate da Pezzella attraverso le sue varie etichette. Anche qui ci torneremo mercoledì prossimo. Lo abbiamo dunque nominata Venusia Zozzetta Stramonio e la chiamiamo in causa come Cupio Dissolvi. C'è un profilo Bandcamp molto interessante, mi ha fornito gentilmente molto del suo materiale, non tutto rintracciabile sul web, ma questa traccia di stasera invece lo si può fare sul profilo Bandcamp. È una cover, diciamo, di Annarella, abbastanza irriconoscibile. Annarella fu un successo dei CCCP e qui c'è una interpretazione, diciamo, radicale, come scritto anche su nelle parentesi, Annarella in lingua radicale, un brano molto lungo, ce ne ascolteremo una metà, circa 8-9 minuti. Intanto saluto Christian, amico di questa radio, tassista, e spesso ha come compagna di lavoro proprio Radio Onda Rossa. Una dirompente e psichedelica versione di Annarella da parte di Cupio Dissolvi di Venusia Zozzetta Stramonio. Ulteriore esempio di genialità applicata alla musica per questa artista marchigiana. Niccolò Locci, in maniera molto arguta, dice che può ricordare anche Rise on Daetre, ed è vero, anche perché secondo me poi il riferimento potrebbe anche essere i Current 93 di inizio carriera, quelli più sperimentali e coraggiosi, se vogliamo, ai quali parzialmente si è anche ispirato Peter Anderson dei nostri Rise on Daetre. La seconda parte di Annarella ce l'ascolteremo mercoledì prossimo.